piano la cera cadeva come lacrime in un vaso la luna. Ogni notte il suo viso una croce, ogni giorno non vedeva la luce. Tra valigie in un attico assente, pronta a buttarsi nel vuoto da un ponte. Nella mente non aveva colore, più alcun sfogo, più alcun dolore. Attraversava la strada distratta come un soldato dopo una sconfitta. Impossibile regalargli un fiore, impossibile capire il suo cuore. Il suo nero era un nero profondo, una rosa che si specchia nel fango. E Gesù era un pescatore che issava nel cielo le vele. In Palestina un uomo tutto d'un pezzo, a Gerusalemme il profilo di un pazzo. A Gerusalemme il profilo di un pazzo. Un demonio, uno schiaffo, questo è il loro ricatto. Un fucile puntato quando ami, dal mondo sei escluso. Su pezzi di vetro ci si scopre con i piedi sul fuoco. La tua vita ti sembra un imbuto, la tua vita diventa uno sputo. Quando il vuoto ti strappa anche il nulla, una lama in silenzio ti spella. Una guerra che sanguina in gola, una muta battaglia. Tu sola porti avanti tra mille paure, i tuoi occhi sono acqua di sale, il tuo sguardo un pallido sole, e il silenzio piano piano ti uccide, e il silenzio piano piano ti uccide. Un demonio, uno schiaffo, questo è il loro ricatto. Fucile puntato quando ami, dal mondo sei odiato. Quando il vuoto ti strappa anche il nulla, e sei sola come una bestemmia, non lasciarti partire che il mare, resta tutto da navigare. Quando il vuoto ti strappa anche il nulla, non lasciare morire la voglia, che l'amore è una spada di fuoco, una strada che dà vista anche a un cieco. Quando il vuoto ti strappa anche il nulla, quando il vuoto ti strappa anche il nulla, quando il vuoto ti strappa anche il nulla.